Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Eccoci qua, ben arrivati, ben sintonizzati sui 103.100 in modulazione di frequenza, sulle frequenze appunto di Radio Città Fujiko. Ben arrivati in quella che è ovviamente la prima puntata per il 2023. Appunto di Easy Pop, domenica 8 gennaio. Abbiamo appena abbandonato la festa dell'Epifania, quindi le Befane, come si suol dire, e siamo entrati di fatto, insomma, in quello che è l'anno nuovo con una puntata nuova di Easy Pop. Musica buon anno, dipendente, Paoletti, buon anno a tutti libere, a tutte. Buon anno, e speriamo che speriamo di sì. E abbiamo sul piatto, sui vari piatti qua, e su via varie non si faccia prendere le mani con i piatti, non si è mica al ristorante. Ecco, abbiamo diverse nuove uscite discografiche, perché qua si parla ovviamente di uscite discografiche di personaggi emergenti della musica italiana, e quindi insomma direi di iniziare a far scaldare i motori, visto che comunque qua un po' di freddo c'è, regia? È un po' freschino in studio, sì. Si è raffreddato lei, la sentiva un po' nasale. È appena entrato qua, ho sentito il frescolino. Ecco, ok. Allora, vogliamo ricordare solo 333-180-94-94 per i vostri short message, per entrare in contatto con noi, con la nostra redazione. Io vado solo a segnalarvi il primo brano con cui iniziamo il 2023, ovvero sia Vasco Barbieri, e ci presenta Fughe Compromessi. Vasco Barbieri l'abbiamo già conosciuto tempo addietro, noi ci ascoltiamo, questo è il suo ultimo singolo, ascoltiamolo. Mentre mi spoglierò, toglimi l'anima, lasciami piangere, dimmi che non lo sai, io devo crescere. Che nascondono quello che siamo, un continuo ripetersi che noi non controlliamo, il ritmo non cambia, rimane la fiamma di un sogno svanito, rimasto rimpianto, ma sono qui, non voglio parlare. Dovremo usare lo slancio di un abbraccio, finisce col rimorso, non siamo più gli stessi, fra fughe e compromessi, sono stanco di fingere, lasciami andare, ti prego, adesso basta. Sono solo un matto nel pensare che non c'entro, ma questa incomprensione mi lascia perplesso in silenzio. Ecco un personaggio che avevamo già avuto l'occasione di parlare di lui, Vasco Barbieri. Fughe e compromessi è il suo ultimo singolo in ordine cronologico. Vasco Barbieri, lo ricordo, nasce il 6 agosto del 1985 e pensate un po', in seguito a un coma che gli fa perdere la memoria nei primi anni di vita, praticamente si risveglia poi a una nuova vita completamente, insomma, così ristabilito, però con alcuni danni. Però ciò non lo ha scoraggiato, anzi lo ha portato a un recupero e poi ad avvicinarsi alla musica, tant'è vero che ha avuto una carriera, un inizio straordinario, perché lui vive tra gli Stati Uniti e l'Italia, e devo dire che si è approcciato alla musica italiana vincendo anche diversi piccoli festival e diversi festival internazionali social, tant'è vero che, insomma, questo è il singolo che comunque è il suo terzo in ordine cronologico, che lo ha portato appunto a incidere questa selezione musicale. Però ha avuto già appunto delle menzioni per dei clip che aveva girato in precedenza, e di lui ne avevamo già suonato con Portami con te e il suo già insomma suonato Ritorno. Detto ciò, insomma, un in bocca al lupo per questo personaggio che ha veramente dell'incredibile, è una cosa un po' particolare e singolare per questo artista, una voce poi particolare, l'avete sentita. Io direi di passare invece a La Pard e ci presenta invece Senso Unico. Se per caso cercando una ragione non vedi che l'hai già persa, rincorrendo lucciole ormai spente, cerchi di accendere il buio, non ci riesci. Un bambino ti prende per la mano dicendoti resta qui, non andar lontano. E mentre affoghi nei ricordi, il tempo passa, si è fatto tardi. C'è solo una direzione, non fermarti, segui il tuo cuore. Ti porterà dove non ti aspetti, segui il senso unico, non puoi fare altrimenti. C'è solo una direzione, non fermarti, non serve ragione. Arriverai dove niente è scontato, smetti di ascoltare le voci del passato. Cerchi ancora una soluzione per eliminare quei pazzi che vestono i tuoi panni, ridendo dei tuoi danni. Non esiste giusto o sbagliato, se è stato fatto ci sarà un significato. Hai aperto porte, ha battuto i muri, questa sofferenza quanto pensi che duri. Puoi ascoltare fino alla morte, ma non scendere a compromessi, sfida la sorte. Vivere il tuo presente nel passato non servirà a niente, ti terrà legato. Lasciami stare, non ritornare. Ho voglia di scegliere. Una voce davvero interessante che dovremmo imparare a conoscere nelle sue sfumature più incredibili, no? Si chiama Senso Unico, il singolo con cui La Pard ha vinto la sezione Nuove Proposte del premio Mia Martini 2022 ed è disponibile appunto in digitale scaricabile. Dunque, c'è da dire che lei non è nuova appunto alla musica. Se non sbaglio, lei è anche figlia d'arte di un artista che poi fa anche, se non sbaglio, il pranoterapeuta. e quindi ha sempre vissuto di diciamo di musica. Poi comincia anche a fare delle selezioni per X Factor nel 2014-2015 per poi approdare addirittura nel 2018 ad Area Sanremo con Ritrovata, la canzone che le ha portato veramente tanta fortuna per nel mondo, nel settore appunto delle nuove uscite discografiche. E poi nel 2022 riesce insomma così a vincere il premio Mia Martin 2022 sezione nuove proposte con il brano che abbiamo ora ascoltato, si intitola Senso Unico. E quindi, come dire, se sono rose fioriranno, le premesse ci sono, la voce c'è, e quindi insomma anche lei è molto brava nel scrivere insomma le sue canzoni. Quindi ricordate questo nome, la Pard. A questo punto invece vengono a trovarci i 500 con Gelosia Cronica. Gelosia cronica, fingo che non mi interessa. Cosa fai sabato sera senza me, da sola in camera? Chiudo fisso nella testa solo un'altra sigaretta e salgo in macchina. Chardonnay, bagni quelle tue labbra bellissime mentre va la playlist degli Steely Dan. È una vita che fuggo ma non da te, perché con te è difficile. Non sappiamo più che vogliamo, se me lo chiedi nulla è cambiato. È un'illusione. Ti voglio anche se sbagliato stanotte. Abbiamo infranto le regole non dette. Alzati come molecole, questione di chimica. Senza troppi discorsi, ci guardiamo negli occhi ma continuiamo a lasciarci andare. Fammi, fammi, fammi, fammi sentire come se non fossimo persi. Ci guardiamo negli occhi ma continuiamo a lasciarci andare. Per i Beatles era Michelle, ma noi ci capiamo troppo bene. Quella volta è stato un errore promettersi tutto tranne l'amore. Sarebbe utile cambiare direzione, ma ci lasciamo solo un letto sfatto. Ti voglio anche se sbagliato stanotte. Abbiamo infranto le regole non dette. Alzati come molecole, questione di chimica. Senza troppi discorsi, ci guardiamo negli occhi ma continuiamo a lasciarci andare. Ora di cosa hai paura? Ora suonami qualcosa. Fammi, fammi, fammi, fammi sentire come se non fossimo persi, due cieli distanti. Ti voglio anche se sbagliato stanotte. Abbiamo infranto le regole non dette. Alzati come molecole, questione di chimica. Senza troppi discorsi, ci guardiamo negli occhi ma continuiamo a lasciarci andare. Fammi, fammi, fammi, fammi sentire come se non fossimo persi. Ci guardiamo negli occhi ma continuiamo a lasciarci andare. 500, Gelosia Cronica, qui alle frequenze dei 103.10 di Radio Città Fujiko. Siete all'ascolto di Easy Pop, chi vi parla il Bolognese Volante. Dall'altra parte ovviamente c'è Franco Paoletti. Parliamo di loro, allora. Li abbiamo avuti in sottofondo, questi 500 con Gelosia Cronica, un gruppo praticamente in attività dal 2015, e nel 2021 è uscito il loro singolo Adrenalina, canzone che ha simboleggiato diciamo una risposta positiva a un loro periodo negativo. Grazie a questo singolo però finiscono in varie playlist Spotify e della Apple Music, e dopo appunto un po' partecipano addirittura al Fatti Sentire Festival, trasmesso poi da Rai 2, e poi piano piano vari concerti, tra cui l'Hiroshima Mon Amour, uno dei più importanti festival musicali dei gruppi indie, poi il Groove Village Festival, all'Ariston a Sanremo, erano lì a Casa Sanremo e Sanremo Rock, e poi via via insomma hanno dato le stampe diversi singoli, e devo dire insomma che è da 2015 che ci stanno lavorando, e finalmente sembra che sia arrivato anche il loro momento per questa band torinese. Complimenti a loro. Io direi di andare invece con la prossima, ad appannaggio di Davide De Luca, ci presenta Amo, amo quelle cose. Quali ce le dice? Thank you. tiro sollevato. E poi non si sa quello che sarà di noi stasera. È così bello quando resti, oh yeah. È triste quando te ne vai. No, no, nel cuore della notte. Oh, oh, oh. Non si sa mai quello che sarà. Amo le cose che fai con me e non sarò mai stanco di sognare ancora con te. Amo le notti che stai con me e ogni attimo con te speciale quando tu sei con me. Noi siamo buoni amici, oh, ma con qualcosa in più. Con tanti benefici, oh, oh, oh. Non si sa mai quello che sarà. Amo le cose che fai con me e non sarò mai stanco di sognare ancora con te. Amo le notti che stai con me e ogni attimo con te speciale quando, quando sei con me. Amo le cose che fai con me e non sarò mai stanco di sognare ancora con te. No, no, amo le notti che stai con me e ogni attimo con te speciale quando, quando sei con me. Adesso quando sogniamo insieme sembra un déjà vu con te. Ma che cosa vuoi da me se poi io non mi sveglio più. Amo le cose che fai con me. Suadente, questo brano, che ne dice lei, bolognese? Suadente? Ma sì, mi piace come definizione. Paolo. Allora, si sappia che questa è una cover italianizzata di questo pezzo che poi partecipò tanti tanti anni fa all'Eurovision Song Contest, di cui adesso già si fa un gran parlare, perché si è curiosi di sapere chi rappresenterà l'Italia, ovviamente. Bisogna aspettare. Dopo il Festival di Sanremo, aspetteremo, tanto manco un mese. Il prossimo Sanremo. Obiettivo è quello, il Festival di Sanremo. Già. Comunque fatemi parlare di Davide De Luca, un cantante, musicista, cantautore di Lecce, comincia a studiare canto e chitarra e poi si dedica al jazz. Nel 2015 partecipa alla finale del Cantagiro a Guidonia con il suo inedito 15 anni, vincendo addirittura il premio Little Tony e venendo inserito nella compilation del Cantagiro. E poi via via da lì sono iniziati diverse diverse strade per lui, che ama soprattutto il jazz, e poi diverse scuole dove ha frequentato, insomma, scuole di jazz e non solo, e poi workshop vari, e quindi si è messo in luce con, insomma, con simpatia con diversi singoli, e questo, insomma, è uno dei tanti. Complimenti quindi a lui, e come dico io, se son rose fioriranno. Ah, Davide, non cominciamo con le rose, è iniziato l'anno, io ricomincio con i vecchi, con i vecchi vizi, cominciamo con le rose. Comunque complimenti a Davide De Luca, amo quelle cose, il pezzo che abbiamo ascoltato. E a questo punto viene a trovarci Santo Ianni e Calpestare. E vai di Santo Ianni. Mi sono chiesto più volte quando ho capito che nella vita il segreto è non fare schifo, non fare così male, non farsi mai notare, non impegnarsi veramente ma farlo sembrare. Mi sono chiesto più volte dove ho imparato, chi mi ha insegnato, quando è successo che mi sono realizzato. Quando e dove? Nel cortile di casa ho imparato a calpestare, dietro ai banchi di scuola ho imparato a dubitare, all'oratorio estivo ho imparato a bestemmiare e nelle mura di casa a farmi male, a farmi male. Nel cortile di casa ho imparato a calpestare, dall'analista ho imparato a non farmi analizzare, nelle domeniche a messa ho imparato a predicare bene, a continuare a comportarmi male, sempre male, sempre male. Sempre male, sempre male. Sapessi come fare, mi piacerebbe tanto disimparare e poi ricominciare. Tu tutto da capo, tutto da capo. Sì, tutto da capo, tutto da capo. Provare a camminare, continuando ad inciampare. Provare con dei versi a farmi interpretare. Che siete voi grandi a non capirci un cazzo. Che siete voi grandi a non capirci un cazzo. Nel cortile di casa ho imparato a calpestare. Dietro i banchi di scuola ho imparato a dubitare. All'oratorio estivo ho imparato a bestemmiare. E nelle mura di casa a farmi male, a farmi male. Nel cortile di casa ho imparato a calpestare. Dall'analista ho imparato a non farmi analizzare. Delle domeniche a messa ho imparato a predicare bene. A continuare a comportarmi male. Sempre male, sempre male. Ma un giorno tutto questo, fidati, non sarà tuo, ma sarà bello lo stesso. Santo Ianni, calpestare. Adesso cosa ci dice? Cosa ci racconta Poli? Beh, un personaggio sicuramente in ascesa che piace tanto alle ragazzine e poi sui social va fortissimo. Calpestare è il brano con cui Santo Ianni inaugura il suo 2023 dopo le soddisfazioni dell'album Nonostante in Paradiso, lanciato nel gennaio scorso. Insomma, quello per lui è stato un anno ricco perché insomma sono stati inseriti dei suoi pezzi, per esempio nel film di Pieraccioni, se non sbaglio, e poi per lui c'è stato stato coinvolto nell'album tributo a Chieffo, per esempio, e poi insomma la nuova rinascita insieme al DJ Molla, che insomma lo ha ben indirizzato nella musica italiana, e poi piano piano insomma altri duetti per lui. Poi cosa c'è da dire? Che per quanto lo riguarda, lui è iniziato con il grande supporto e diciamo l'incoraggiamento di Gianni Bella nello studio appunto della musica, della canzone d'autore, e poi insomma una nuova rinascita con appunto l'incontro del produttore Molla, che appunto gli ha dato una nuova identità, una nuova immagine per quanto lo riguarda. Devo dire insomma per lui insomma diciamo il 2022 è stato buono, altrettanto ci si aspetta per questo 2023 con questo singolo molto molto così interessante. Sì, insomma come si può dire, oltre che interessante. Adesso ci pensa mentre io lancio il prossimo singolo, che ce lo propone un ragazzo giovanissimo, si chiama Sono Ale, ci propone Foglie al Vento. Dopo Paoletti ci parla di questo nuovo personaggio. Non ho spinto il tasto, mi sa. Ah no, arriva. Un po' meditabondo il disco. Arriva, arriva. Non mi cercare con tanti sogni, non riesco a sognare questo vento infinito. E sei bellissima, dolcissima, dolcissima. Sei sparita ed eri indifferente, io triste come un deficiente. Son cresciuto tra la gente, maturato con la mente. Quando sto con te ogni cosa resta a posto. Quando sto con te inizia tutto senza costo. Penso sempre a te, ma non mi rendo conto che se ti penso sento le foglie al vento. Sotto l'acqua e senza ombrello, ti penso ancora. Non ti voltare senza di te, non riesco a stare. Cerco un posto in cui abitare, se il mio sogno dove vorrei arrivare. Dove vorrei annegare, senza te non ci so stare. Sento le foglie al vento, frantumate con il tempo. Sotto l'acqua e senza ombrello, ti penso ancora. Giovane promessa, se ne parla. Sì, sì, così, un brano caratterizzato da un ritmo incalzante, molto indie pop. Lui è praticamente un personaggio prodotto anche lui da sempre DJ Molla, che praticamente è sempre alla così ricerca di nuove proposte, nuove voci. Però parliamo di Ale, lui si fa Alessandro, in realtà si fa chiamare sono Ale, tutto scaturisce da un errore di battitura, insomma, e quindi così da questo errore hanno detto beh, ma sai cosa ti dico, ha scelto il nome, e quindi così è rimasto sono le cose Ale, più ovvie, esatto, e quindi è piaciuta l'idea, e questo è il singolo per lui, insomma, completo di debutto, sono Ale, e questo è il pezzo che abbiamo appunto ascoltato, Foglie al vento. Detto ciò, cosa facciamo, regia? Allora, adesso abbiamo i Raging Sons con Tonight. Arrivano. Anche questi partono piano, arrivano. Anche questo per iniziare bene l'anno, questa prima puntata del 2023, Paoletti? Sì, i Raging Sons sono irlandesi come gli U2, per esempio, sono attivi nella scena musicale internazionale dal 2018, hanno forgiato il loro sound ascoltando molto, no? I Muse, gli U2, The Killers, si sentono, no? Tutte queste, si sentono queste influenze, sì, in effetti. Il risultato, infatti, è un medley affascinante di rock, dark, sintetizzatori, insomma, questi suoni cupi, delle chitarre ruggenti. Questo è il loro estratto dal loro nuovo album, si intitola appunto Tonight, il brano che abbiamo ora ascoltato, proprio per, insomma, scaldare iniziare bene l'anno, ci voleva anche un po' di rock, dark. Ma vedrà rock la seconda parte, quanta roba. Sì, sì, sì, sì. Allora, che dire, che siamo giunti alla fine della prima parte, piccolo break, rientriamo fra pochissimo, quindi non andate via. Easy pop. Sai qual è la novità? Da oggi puoi avere l'esclusiva Fidelity Card dei centri di terapia ionoforetica. Informati presso le segreterie del centro oppure chiama subito lo 051 314 0488 per attivarla. Ionoforetica Fidelity Card. Entra nel club della salute. Puoi recarti ai centri di terapia a Bologna in via Lemonia 47 oppure a Castelmaggiore in via Gramsci 211. Direttore sanitario dottor Francesco Comerci. A Bologna ci sono più di 800 pizzerie creative, gourmet, da sport. Ma se io volessi provare il sapore di una pizza tipica napoletana? Te lo dico io. Se vuoi gustare la pizza napoletana verace, c'è Donna Margherita in via Lombardia 13C, nel quartiere Savena. E la pizza com'è? Ma stai pazziando, pizzaioli napoletani, forno a legna, ricetta tradizionale e materie prime campane. E non solo questo, ma di Napoli trovi anche l'atmosfera, sempre allegra, che mette buon umore. Wow, mi sta venendo voglia. E allora ya Donna Margherita è aperta anche per asporto e domicilio. Cerca pizzeria Donna Margherita sui social oppure chiamalo 051 54 44 22. Queer Cut, la prima parrucchiera queer a Bologna. Per tutte le esigenze, per tutti i tagli, per tutte le tasche. Scopri la nostra pagina Instagram Queer Cut Bologna, prenota un appuntamento e vieni a trovarci. Third time we tried to contact the fire radio, no response. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Eccoci qua, pronti per rientrati dopo il break pubblicitario per la seconda parte di Easy Pop di domenica 8 gennaio 2023. Ovviamente siamo in diretta 333 180 94 94. Siete ancora in tempo per raggiungerci e inviare i vostri short message, i vostri suggerimenti. Siamo qui anche i vostri auguri, perché non ne abbiamo ricevuti diversi grazie ai social, ovviamente non abbiamo risposto a tutti perché eravate in tanti, quindi vi ringrazio. Vi Io ringrazio ho anche a tutti. Sei riuscito? Lei è riuscito? Da quando mi dà del tu? È vero, mi sono rimanga al suo posto. Sì, è vero, ha ragione. È riuscito a rispondere realmente a tutti? Certo. Erano tanti però, Io ne avevo pochi. Certo. Lei ne ha tanti, io ne ho pochi. Ah, ok, io ne ho tanti, così si dice. Ne ho tanti, io ne ho pochi, avendone pochi, ho risposto a tutti. Ha fatto bene, quindi le passerò i miei contatti, dunque. Anche no. Allora, dicevamo, ben rientrati in questa seconda parte, e a questo punto vado a presentarvi colei che aprirà la seconda parte, ovvero sia un nome, una garanzia di qualità, di musica di ottima fattura, come si suol dire. Mariella Nava ritorna alla musica con un pezzo davvero singolare, intitola Alla Salute. È una nuova canzone augurio, non solo per questi giorni di feste, ma anche per così, per dare un prezioso come dire consiglio alla vita di puntare proprio sulla vita e non lasciarsi mai andare. Quindi una ventata di ottimismo in questo 2023 ci vuole, no? Come si suol dire, chi ben comincia è a metà dell'opera, e quindi noi cominciamo bene. Mariella Nava, è inutile dire, lei la cantautrice tarantina che ben conosciamo, ha scritto veramente per tantissimi personaggi, da Morandi a De Crescenzo a Mina e poi per chi altri, e mi sfugge qualcuno sicuramente, però Renato Zero ovviamente. Direi di ascoltare il suo nuovo singolo, si intitola Alla Salute, appunto, Mariella Nava. Salute di tutti noi, salute per festeggiare, con questo vuoto sul cuore si deve brindare, che qui si vive o si muore, si combatte, si vince o si perde, ma ci si deve stare. Auguri a chi si dispera, appena perso un amore, alla salute comunque se passa il dolore, e calici in alto per spensierare, auguri, auguri, qui ci si deve salvare. Chiamo io, chiami tu, ci si può perdonare. Salute, salute a chi vuole tentare. Per una volta la festa sembra già tutta pronta, la dobbiamo solo iniziare. Salute a tutti dettagli che dobbiamo osservare e a quelli che ci potranno sfuggire. Su ogni pazienza già pronta a finire, auguri, salute a ogni frase che non si ha più voglia di dire. Salute alle vite, pareti rinfrescate di stanza, alla parola ancora spinta nell'abbastanza, alle mille scadenze rinnovate speranze, auguri a chi c'è, chi non c'è, chi fa da sé. A te, saluti al poco che abbiamo, all'avanzo che c'è, si balla, si beve, si può ripartire, ti sento, mi senti, si deve campare, vieni qui, stringi forte, non farti aspettare, auguri a chi arriva, a chi parte, che tutto finisce, ma poi ricomincia, e di là che c'è il resto, qui invece mance, allora salute a ogni cosa capita, apertura di occhi, felicità, sogni, che salute tra pochi. Eh beh, è una voce inconfondibile e soprattutto una penna inconfondibile nel cantautorato femminile, va ricordata anche lei che insomma recentemente l'avevamo visto insieme a Rossana Casale e a Grazia Di Michele cantare insieme, portare in teatro la loro musica. Per quanto riguarda questa grande cantautrice, insomma, ha scritto, come dicevo, per tantissime, non ultimo insieme a Mango con Il mio punto di vista, ma poi insomma ha scritto veramente per tantissimi personaggi, anche per Dionne Warwick, Andrea Bocelli, insomma chi più ne ha più ne metta, e non ultimo anche per Eros Ramazzotti nel pezzo Battito Infinito, che appunto è uscito nell'album di Eros Ramazzotti appunto recentemente. Bene, detto ciò, cosa c'è, regia? Abbiamo ancora della musica italiana, mi pare. Assolutamente, adesso abbiamo un bel pezzo interessante. Ah sì, ascoltiamolo. Si presenta da solo, in effetti. Suonano le macchine, clacson. C'è da spostare una macchina. Ah, ancora che è questo qua? C'è da spostare una macchina. Io l'ho già sentito. Disc jockey, c'è da spostare una macchina. Venga fuori qualcuno che da solo non ce la posso farcela. E va, e va, e va. Va più il diesel, è elettrica. È un diesel. No, è elettrica. Adesso da qui al 35 e poi il diesel basta. C'è da spostare la macchina di prima. Vuole venire qualcuno a darmi una mano oppure no? Che siamo qua tutti a ballare, io sono qua a lavorare. C'è da spostarla e basta. Ecco, c'è da spostare la macchina elettrica. La vogliamo la spostarla o no? E basta. Una mano a questo povero ragazzo, conosciamo suo papà. Qua, per la macchina quando mi metterà là. È un diesel, diesel. È un diesel elettrico. È un diesel. Ma che diesel, adesso c'è elettrico. Il diesel costa troppo, con quello che costa. Non si usa più, capito? Oh, che c'è la colonnina. Cioè non c'è la... Dov'è la colonnina? Quella colonnina di qua, devi metterla là, qua non si vede. Vengo via con l'elettrica, cosa faccio? Ci attacco il rasoio, ci attacco. C'è da spostare la macchina di prima. Ecco. La vogliamo capire? Dai. Che io sono Pani che cerca di spostarla. E da sola non ce la fatta. Per forza. E basta. C'ha ragione lui, dategli una mano, no? Paoletti è stupenda. È troppo le piace, bellissima. Visto cosa ho scoperto. Ancora di più, lei non riesce a vedere la copertina del singolo, ma è incredibile. Dovrei girare il video, è incredibile. È stupenda, è attualissima. Non dico altro. Comunque, Agosta, featuring Mitch DJ Francesco Salvi, qui hanno ricoverizzato una canzone che fu un grandissimo successo. Un quarto posto dei singoli più venduti, penso, quell'anno. C'è da spostare una macchina, e dopo, grazie a questo successo, poi andò al Festival di Sanremo addirittura il buon Francesco Salvi, che lo ricordiamo tutti per il Drive-In e non solo, insomma, per altre sue show, insomma, visto che è comunque un cantautore e anche un showman davvero grande, esilerante. Ritorna con questa canzone attualizzata. Come dire, gli anni 80 non finiscono mai, e quindi si ricicla. Li ha riattualizzati, anche insomma, perché la macchina non è più un diesel, ma è elettrica. E poi anche, come scritto qui, elettrica. Quindi andate a vedere il video, divertentissimo. Andate a cercare sui social la copertina di questo singolo e rimarrete sbalorditi. Io non dico altro. Complimenti a Francesco Salvi, qui aiutato da Agosta e Mitch DJ, che l'hanno aiutato, insomma, è una canzone ballabile, ripattinare. La balleremo sicuramente per tutto. Io la compilation dance tutto di agosto l'inverno, detto assolutamente. E a questo punto invece torniamo seri con Elena Faggi. Esatto, il nostro con Paoletti. Elena Faggi viene a trovarci con insomma, tanto serietà non lo so, perché il titolo dice dito medio. Molto serio. Ogni volta che mi sforzo, mi convinco sia diverso, finisce sempre uguale. Dimmi che senso sperare. Dice che mi pensa, che non riesce a stare senza di me, mentre scrive ad altre tre. Ma vatti a fare un giro, ti lascio un buon augurio con tanto di dito medio. È un saluto, ma di congedo. E allora che devo fare? Prendere o lasciare? Provarmi a fidare e farmi del male? Che devo dire? Lasciarti mentire, vederti sparire, farmi soffrire, dare ascolto al cuore o alla mente, dare peso al passato, al presente. Ti confondi tra la massa, a volte ti rilassa. Perdere un po' i sensi, non dire ciò che pensi. Su cosa dovrei basarmi? Di quale dovrei innamorarmi? Non rispondi e ti diverti, più ti manco e più ti penti, perché non riesci a crescere. È superficiale, hai paura di provare qualcosa che vada oltre, qualcosa che sia più forte. E allora che devo fare? Prendere o lasciare? Provarmi a fidare e farmi del male? Che devo dire? Lasciarti mentire? Elena Faggi ci ha proposto questo dito medio, che vuol dire tutto, vuol dire niente. Non diciamo niente, ci limitiamo a parlare di Elena Faggi e del suo singolo. Esattamente, il suo nuovo singolo, estratto dal suo nuovo LP licenziato in questi giorni, Prevedibile, si intitola Dito Medio. È la sua quarta traccia, appunto, di Prevedibile. Possiamo dire che lei praticamente spiega all'artista che questo dito medio è una canzone di crescita, e sento che mi sento di essere cresciuta e maturata scrivendola, cantandola. sarà così, noi prendiamo atto, però insomma. Ma non c'è il prescritto che vedo che. Ai ai ai ai. E quindi niente, lei è di Cesenatico se non sbaglio, e quindi insomma è arrivata a questo EP con grandi speranze, quindi se sono rose ovviamente fioriranno anche io per lei. La esorto a non parlarmi più di rose, adesso basta con queste rose. Adesso andiamo con Jakesa e la sua 958. Si prepari e mi dica se non c'è il preskit che glielo trovo. JXA 958, un brano solo musicale. Normalmente Easy Pop non mettiamo brani solo musicali, ma questo l'ho caldamente sponsorizzato io. E quindi si prende le sue responsabilità. JXA è un DJ all'anagrafe Gianfranco Avallone, da classe 1973, vive ad Asti ed è un DJ che è comunque passato diverse esperienze musicali in alcune band come chitarrista e musica punk, grunge, metal. Poi si dedica alla dance e naturalmente arrivano anche le tastiere e la musica elettronica, e questo è un suo pezzo così che aveva già inciso, poi dimenticato e riesumato grazie soprattutto alla tecnologia. Aveva archiviato questo pezzo come 958 ed è rispuntato fuori e ha detto: sai che ti dico, è proprio bello questo pezzo. Lo ha rielaborato nuovamente e devo dire che insomma il pezzo rende molto, in pieno stile euphoric trance, molto europeo, molto da clubbing, come piace a tanti. Devo dire che insomma il pezzo ci è piaciuto e l'abbiamo suonato qui. JXX con 958. Ho detto tutto, regia. Adesso Sain It, Try to Love. When I'm at work, I can feel all the stress. When I'm with you, I just simply forget. But I try this hard because I know I don't try to love you. Try to love you. I do. You make it easy, try to believe me. No, I don't have to. In onda. Eccoci qua, si chiama Zenith se non sbaglio, vero regia? Corretto, bravo. Con Try to Love You, ovviamente il pezzo che abbiamo ascoltato. E come faccio a spiegare questo brano di questa artista particolarissima, che poi è bolognese, non vorrei dire, però insomma, dopo il successo del precedente singolo Follow Me con featuring Tori Lanez, che è un grandissimo della musica spagnola, e poi il grande successo eurovisivo di Adrenaline, che ha avuto, vanta 5 milioni di views su YouTube solo per questo pezzo, ritorna appunto Sam Heath con questo Try to Love You, che è uscito proprio il 31, quindi la notte del 31, e quindi insomma è fresca esatto, non stiamo lì però è fresca un'uscita discografica, ma noi mettiamo tutta roba immediata, fresca, che sta avendo grandi soddisfazioni, sempre. Sta un avendo una sorpresa per lei, va bene, allora io attendo, mi sa che mi piacciono le sorprese, io attendo ancora il suo così il suo pacchettino regalo natalizio. Non dica queste cose. Io lo dico. Allora adesso vengo. Comunque a trovarci. Lei ha già lavorato con anche Alvaro Soledad, se non sbaglio, insomma il brano è prodotto da Thomas Sergard, e lei la conosciamo soprattutto perché è stata chiamata, dunque se non sbaglio, a rappresentare il qualche anno fa l'Eurosong Contest, a rappresentare la Repubblica di San Marino. Ah, interessante. Però lei è di Bologna, quindi insomma nata a Bologna, ma è una figlia diciamo del mondo, così allora, si adesso considera. Ha finito? Brava Zenith, sì, avevo brava finito, Zenith, terminato. Sicuramente, mi è piaciuta molto. Adesso abbiamo un duo di signori che non abbiamo bisogno di presentarli, e anzi li faccio partire perché non c'è bisogno di dire nulla, direi. La musica parlerà per noi. Uno è un suo favorito comunque. Anche quando ci buttiamo via, per rabbia o per vigliaccheria, per un amore inconsolabile, anche quando in casa è il posto più invivibile, e piange non lo sai che cosa vuoi, credi. C'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio di questo mondo pazzo e inutile, è più forte di una morte incomprensibile e di questa nostalgia che non ci lascia mai. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai sai, vedrai una via di uscita, c'è. Anche quando mangi per dolore e nel silenzio senti il cuore come un rumore insopportabile, raggiungibile, e anche quando la speranza oramai non basterà, c'è una volontà che questa morte sfida, è la nostra dignità, la forza della vita che non si chiede mai. Cos'è? Due voci inconfondibili, perché una è quella di Gianni Morandi, e mi alzo in piedi quando dico Gianni Morandi, perché insomma è un signore della musica italiana, un'istituzione, perché insomma è Paolo Vallesi, suo forse uno dei suoi pezzi di maggior successo, infatti è una canzone targata 1992, era al Festival di Sanremo, e questa canzone raggiunse il terzo posto appunto di quel Festival di Sanremo, lo ricordiamo tutti. Contenuta questo pezzo, questo duetto, nell'album doppio uscito da un po' di tempo per festeggiare 30 anni se non sbaglio di carriera per Paolo Vallesi, io noi, questo è l'ultimo singolo in ordine cronologico per appunto per festeggiare Paolo Vallesi, che a me sarebbe piaciuto rivederlo, perché no, insomma, cercheremo di intervistarlo più che mi piacerebbe tantissimo, perché avrei tante adesso cose da chiedergli, e quindi proviamo. Insomma, noi siamo sempre aperti nel nostro salotto musicale, ci siamo. Vi ricordo che nell'album Io Noi c'è appunto questo duetto, ma c'è anche a partecipazione appunto dei grandi successi di Paolo Vallesi, c'è Enrico Ruggeri, Marco Masini, Gigi D'Alessio, Danti, Dolce Nera, Amara e tanti altri. Detto ciò, cosa abbiamo, regia? Un bellissimo disco vintage. Ah. Che me l'ha suggerito lei. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole. Correva l'anno 1968, io ero veramente un bimbo. Sì, certo. E la Caterina Caselli con questo brano non partecipava canzonissima in una delle tante serate, si piazzò, ma non con questo brano, però fu un successo invece a livello discografico e una delle più belle canzoni storiche che rimangono colonna sonora anche di tanti film, adesso non so quanti, ma parecchi. Eh beh, sì, una canzone iper sfruttata, ma conosciamo benissimo, diciamo nel mito collettivo, insieme a tanti altri, di Lucio Battisti, sì, di Mango, molto, di Gianni Bella, di, insomma di tanti autori. Bene, cantautori ovviamente. A questo punto, regia, cosa abbiamo per chiudiamo concludere? Chiudiamo con un brano che ci è arrivato prima di Natale, ma noi sì, purtroppo ovviamente avevamo una pianificazione diversa, abbiamo proposto una puntata che era il meglio di tutte le canzoni che abbiamo trasmesso nel corso di 2022. Anche il concerto di Capodanno, perché abbiamo il primo dato di gennaio, gennaio il concerto di Capodanno presentato da Andrea Gozzi e Angela Zocco, che approfittiamo qui per salutare, augurare assolutamente loro un buonissimo anno. Anche a loro buon anno. Quindi questo è un brano che era rimasto lì, adesso lo ascoltiamo, è ancora buono, siamo appena in finale di feste. Esatto, quindi ve lo beccate tutto, Blue Vocal Trains con Hallelujah. Like this. dispiace interrompere un brano così bello, purtroppo siamo in chiusura, Paoletti. Vi parlo solo dei Vocal Blue Trance, una realtà di un gruppo vocale polifonico di 30 elementi, musicisti e non, fondato da Alessandro Gerini, cantante, vocal coach, arrangiatore italo-polacco, che ha ripensato al coro e a questa realtà. In 5 anni, pensate, hanno attirato l'attenzione a livello nazionale e internazionale grazie a importanti collaborazioni con artisti italiani e internazionali, vincendo tante menzioni e tanti premi, e hanno collaborato per esempio con Gigi Proietti, con Sergio Silvestre e il gruppo dei Modà nella musica pop. Insomma, il progetto conta oltre 100 concerti in Italia e in Europa e il loro successo non si ferma. No, beh, si sente che è una discreta band, specie in questo periodo che si fa parlare di cori natalizi e quant'altro. Purtroppo noi giungiamo un po' lunghi, comunque l'Epifania era soltanto 2 giorni fa, l'Epifania, esatto, per le feste si porta via, si porta via anche questa puntata di Easy Pop. Esattamente, qui allora vi auguriamo nuovamente uno splendido inizio 2023, ci ridiamo l'appuntamento prossimo a ovviamente la prossima settimana. Non andate via, ci rimane la programmazione di Radio Città Fujiko e che dire, bye bye dal Bolognese Volante e da Franco Paoletti, buona settimana. Avete ascoltato Easy Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko. お力だ鋼鉄神宮。